Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Varco il cancello. Il cuore è a mille. Mi guardo attorno e non vedo anima viva. Divento impaziente, sono agitata. Chiedo al portinaio dove si tenga l'esame di ammissione al conservatorio. Aula 105-106. Arrivano i docenti. I candidati entrano uno alla volta. Passano i minuti, le ore. Sento che mi sto stancando, ma l'adrenalina mi tiene carica. E poi finalmente arriva il mio turno. Mi chiamo Marta Scarabelli, ho 27 anni, sono della provincia di Bergamo e sono da quando avevo 10 anni. Sono le 16 e... Le 16 e 7 minuti, è il 5 di settembre, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e abbiamo ricominciato. Buongiorno a tutti, 349-238-6666, abbiamo un microfono da cui io sento me ma non sento loro, quindi però andiamo dritti lo stesso, 349-238-6666. Mi sono accorto solo di recente, non che non ci avessi fatto caso prima, semplicemente mi sono accorto una settimana fa che effettivamente non era facile. Cioè, non era così facile immaginare un piccolo episodio della nostra vita che meglio raccontasse qualcosa di noi. Non era facile, ma quando esce e quando viene, funziona. Voi siete qui, @radio24.it. Sono arrivati e continuano ad arrivare i racconti, cioè gli episodi della vostra vita. È un'orribile espressione, sono arrivati e continuano ad arrivare. È veramente orribile. Fa veramente conduttore del sabato sera su Rai 1. Però d'altra parte ne è arrivato Viola, ne è arrivato uno tipo due ore fa, ok? Quindi continuano ad arrivare i racconti a voi siete qui, @radio24.it. Io, Stefano D'Andrea e Tiziano Bonini ci abbiamo messo, non tutta l'estate, ma una buona parte per leggerli, per guardarli, per ragionarci sopra. E abbiamo dovuto inevitabilmente fare una scelta. Abbiamo dovuto fare una scelta che non è una scelta stilistica, ovviamente, nemmeno qualitativa, perché non è che non ne saremo in grado, probabilmente. È che moltissimi racconti che arrivavano erano dei pezzi di diario, oppure delle riflessioni sparse, delle semibiografie, c'erano delle poesie addirittura. Cioè, mi ricordo, vero? C'era una roba che era una poesia. Ecco, quando però arrivavano quelle storie lì, cioè una pagina in cui ci sia una piccola storia che riguarda la vostra vita, tutto meravigliosamente si apriva. Era come improvvisamente riuscire a capire qualcosa di più della persona che raccontava quella storia. È successo così con moltissimi dei racconti che sono arrivati durante tutta l'estate. È successo così in particolar modo con il racconto di Marta, che è il racconto con cui cominciamo oggi. È un racconto che parla di un esame particolare, non gli esami che siamo obbligati a fare. Sono gli esami che noi scegliamo di fare, un po' come incominciare da capo tutti gli anni un programma nuovo, un po' come oggi. 349-238-6666 è un profilo Facebook, che è sempre quello, poi dopo vi spiegherò meglio come mai e perché. Stefano, l'estate scorsa di questo periodo, Chiara, la mia ragazza, è partita per l'Erasmus. Studiavamo assieme all'università. Io ero la sua ombra e lo sarei potuto essere anche in Norvegia se fossi partito con lei. Invece ho scelto di restare, di affrontare il mio esame, l'ultimo anno di università. 8 esami da solo, ce l'ho fatta e io sono qui a completare la mia tesi. Oppure ancora, Noemi, il mio vero esame è stato decidere di separarmi dopo 29 anni di matrimonio. Pensavo di non farcela, questo è rock and roll, eh? Pensavo di non farcela, e invece io sono qui, da sola e più forte che mai. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook, oppure ancora la mail. Voi siete qui, @radio24.it. È un programma semplice. Ogni giorno c'è una storia, ogni giorno c'è una persona protagonista. Quella di oggi è la storia di Marta. Primo settembre 2010, ore 14. Il sole splende, la giornata è afosa. Il traffico è ancora vacanziero, quindi riesco ad arrivare a Brescia con largo anticipo. Parcheggio. Mi carico in spalla la borsa delle bacchette e controllo più di una volta di aver preso tutti i libri. Faccio un respiro profondo, mi metto in cammino. Passeggio per le vie del centro per circa un chilometro, finché mi fermo davanti al portone di un vecchio convento e leggo «Conservatorio Luca Marenzio». Eccoci qua. Ci siamo. Io sono cresciuta e nata in un contesto di banda musicale, però questa passione era talmente grande che avevo bisogno di imparare anche altro, di apprendere qualcosa in più che mi mancava e che la scuola di musica non riusciva a trasmettermi, e quindi ho deciso di intraprendere questa strada e di provarci. Varco il cancello, il cuore è a mille. Mi guardo attorno e non vedo anima viva. Divento impaziente, sono agitata. Le mani mi sudano, la gola si asciuga. Meno male che non sono una cantante. Chiedo al portinaio dove si tenga l'esame di ammissione. Aula 105-106, mi risponde. Se mi va bene domani mi gioco i numeri all'otto. Salgo le scale. Mi sembra di essere in un girone dantesco. Mi avvicino all'aula, mi do coraggio. Sono preparata, devo solo mantenere la calma e sperare che i miei avversari non siano i nuovi Lionel Hampton. Arrivano. Il primo è un ragazzino, il secondo è un po' più maturo. Alla spicciolata ora ci siamo tutti, siamo in 15. Io sono l'ultima, se tutto va bene passerò alle 18. Entrano i docenti, sembrano simpatici, o forse è quello che preferisco credere. I candidati cominciano a riscaldarsi e inizia la gara. Entra il primo. Poi passano i minuti, le ore. Sento che mi sto stancando, ma l'adrenalina mi tiene carica. Finalmente è il mio turno. Varco la soglia con il sorriso stampato in volto e l'espressione da studentessa matura. Anche perché rispetto agli altri sono un'adulta, visto che io di anni ne ho 26. Gli esaminatori mi guardano, leggono i miei dati e ironizzano sull'età. Cominciamo bene. Scatta la paternale, mi dicono che sono troppo vecchia per tentare un esame di ammissione, che bisogna lasciare spazio ai giovani e che in ogni caso questa sarà la mia prima ed unica possibilità. Era un rischio, cioè o ci salgo su questo treno ora o non ci salgo più. Però quest'anno di poi averlo fatto in età così matura l'ho preferito perché lo sto facendo con una responsabilità in più. Io mi isolo da loro, dal resto della stanza, comincio a ripassare nella testa il programma d'esame. Inizio con il tamburo che maschera bene l'agitazione. E poi timpani, xilofono e marimba. La partenza non è delle migliori. Mi tremano le mani, ma arrivo in fondo senza errori. Cambio strumento. Suono per 20 minuti di fila. Sono rilassata, sono serena ora. Suono cantando la musica e questo traspare dai movimenti, colpo dopo colpo. Mantengo la concentrazione fino alla fine. Mi sento una macchina, senza freni, divoro la strada e non riesco a fermarmi. Esco dall'aula. Il corridoio è deserto. È ora di tornare a casa. Sono stanca. Sono soddisfatta. Passano i giorni. Sono alla mia scrivania, in ufficio, quella che non ho mai abbandonato perché non è facile vivere di sola musica. Mi prendo una pausa. Mi collego su internet al sito del conservatorio. Risultati esami di ammissione anno accademico 2010-2011. Ci siamo. Faccio un respiro profondo e clicco sul file. Il documento si apre. Mi sembrano minuti interminabili. Ho il cuore in gola, sudo e mi sento svenire. E poi eccolo. Non c'è neanche bisogno di cercarlo. Il mio nome è lì, al primo posto. La testa mi gira ancora di più. Spalanco la bocca e urlo «Prima!». Mio papà mi abbraccia talmente forte da togliermi il respiro. Io mi commuovo e sorrido. È orgoglioso di me, non me lo dice, ma glielo leggo negli occhi. Quel giorno ho cominciato a sorridere più di quanto già facessi. Ho toccato con mano una piccolissima parte di quel sogno che ho sempre voluto realizzare. Sì, la strada è ancora lunga, ma io non ho intenzione di cedere. Gli esami peggiori sono quelli che scegliamo di fare, non quelli che dobbiamo fare per forza. No, che poi forse... no, non sono i peggiori. Forse è il contrario. Sono quelli che dicono meglio di altro qualcosa di noi. Perché alla fine, all'esame della terza media, o quello della maturità, non è che possiamo sottrarci. Quella è la scuola dell'obbligo, la cominci e sai che la devi terminare, quindi devi passare da lì. Quegli esami hanno una storia talmente universale, talmente comune a tutti, che un sacco di canzoni, di libri, di film ci si sono sdraiati sopra e hanno sbrodolato fiumi di parole, di immagini e spesso anche di melassa. E poi ci sono gli altri esami, quelli che non servono a farci crescere, servono a farci diventare quello che vorremmo essere. Sono gli esami che noi scegliamo di superare. Quelli dell'università, ad esempio. Anche se quelli forse, perché sono tanti e sono dilazionati nel tempo, forse quelli assomigliano più a un campionato, no? Che ad una finale. Un percorso che dura 3 o 5 anni, che ti dà tutto il tempo di realizzare quello che sta accadendo, di sistemare qualcosa se va storto, di aggiustare il tiro. Gli esami dentro o fuori, quelli sono un'altra cosa. Quello che ha fatto Marta, ad esempio, quello per la missione al conservatorio. Quegli esami non ti danno il tempo di cadere e di rialzarti. Sono come l'ultima partita, quella che decide del destino di chi la gioca, quella che dirà l'ultima parola su chi vince e su chi perde. Ecco, questi esami dicono quanto sei capace di fare qualcosa, quanto sei destinato a farlo. Dicono chi sei e probabilmente chi sarai. A 19 anni ha fatto un esame di questo tipo. Era un'audizione per entrare in una scuola di teatro. Lo feci quasi distrattamente, perché alla fine provarci con tutto me stesso alzava troppo il livello di rischio, no? Quindi era meglio far finta che non mi interessasse, che ci andavo quasi per gioco. E tutto era apparentemente più facile. E non è stato così, ovviamente. Perché poi, quando ti ci ritrovi in una prova, o ci stai dentro, oppure molli il colpo. A quelle audizioni parteciparono 200 persone, tra i 19 e i 26 anni. E le tranche erano due. Una prima scrematura e poi una seconda, definitiva. Io a quel provino ci arrivai da solo, portando una poesia di Palazzeschi e un pezzo di Cieco, che doveva far ridere in teoria, però in bocca a me non so perché suonava come una tragedia. Ricordo ancora la faccia di quella che poi ho scoperto essere l'insegnante di dizione, che mi fermò più o meno a metà della poesia e mi disse: No, ferma. Scusi, ma lei ha qualcosa che non va? Cioè, lei ha un problema di dizione, sputa mentre parla, non si capisce quello che dice. Io ebbi la prontezza di risponderle che sì, ero lì per correggerlo quel difetto. E lei mi rispose: eh sì, bisogna vedere se si riesce a fare qualcosa. Vada pure avanti. Poi quell'esame lo superai, il problema di dizione un po' meno. E all'insegnante di dizione io non fui mai troppo simpatico. Era il 1994, internet non c'era ancora. E ricordo che io chiamai la segreteria facendo finta di essere un mio amico che voleva sapere se Matteo Caccia aveva superato il primo provino. Il secondo poi fu più semplice, anche se non saprei dire il perché. Ricordo però che l'insegnante di recitazione, a me e agli altri, per farci capire quanto difficile fosse il mestiere dell'attore, disse che se in Italia c'erano tanti attori di 30 anni e pochi di 60, non era perché morivano giovani, era perché in pochi resistevano fino a quell'età. Come a dire, ben arrivati e buona fortuna. Quella volta furono loro a chiamarmi a casa per dirmi che ero stato preso tra quei 12 allievi. Ne fui felice, di quella felicità che ti sembra di non riuscire a trattenere. Ed effettivamente poi la mia vita un po' cambiò, non subito, cambiò un po' per gradi. Ora non faccio più quel lavoro lì, forse lo faccio in parte, forse non lo so in maniera diversa. Di solito però gli esami si fanno in un'età acerba, proprio perché è l'età in cui ancora devi capire chi sei e dove vuoi andare. Passati i 30 o i 40 il numero di prove diminuisce o semplicemente prende un'altra forma. Magari non c'è più una commissione dietro a un tavolo che ti fa domande e aspetta le tue risposte. Gli esami dell'età adulta hanno forme più nascoste. Un po' come la puntata di oggi, no? Un po' come ogni inizio. Perché ogni inizio in fondo è un piccolo esame. Ogni volta che cominci qualcosa di nuovo, ti ritrovi a misurare quanto sei pronto e capace per fare quello che stai iniziando. Oggi è iniziata una cosa nuova, il racconto delle vostre storie. Io spero che vada bene come è andato bene l'esame di Marta. Spero di capire qualcosa di più lungo questo nuovo tragitto. Oggi è il 5 di settembre, è praticamente un anno esatto, perché era il primo di settembre 2010, che Marta ha fatto questo esame. Pronto Marta? Matteo. Ciao, come stai? Grazie. Bene, grazie. Tu? Sto bene, insomma, si va dritti. Senti Marta, la prima cosa che volevo chiederti è esattamente questa: chi è Lionel Hampton? È un famosissimo vibrafonista, jazzista della verità. Scusa, un vibrofonista? Vibrafonista. Colui che suona il vibrafono, che è un... No, che ti ringrazio Marta. Fino al fatto che colui che suona il vibrafono si chiama vibrofonista, potevo immaginarlo, ma il vibrafono è esattamente? È uno strumento a percussione. Metti di vedere una tastiera di un pianoforte. Sì. Trasforma i tasti in metallo. Ci sono delle canne sotto che servono per prolungare il suono e questi tasti vengono percossi da delle bacchette. Ma e questo, scusami, uno che fa il conservatorio come tu stai facendo, ricordiamolo, da un anno a questa parte, sì, con successo? Beh, per ora sì, ho fatto l'esame del primo anno ed è andato molto bene, quindi Per ora va liscio. Senti, e quindi uno che studia percussioni, giusto? Come sì, te? Sì, sì. Deve impararle tutte queste, dalla batteria ai... No, allora, nel conservatorio ci sono due corsi. C'è un corso che è tipicamente per jazz, quindi lì impari batteria, jazz e tutte queste cose annesse. E poi c'è un corso per percussioni classiche, che sono un po' quelle che suoni nell'orchestra, quindi timpani, marimba, vibrafono. Comunque devi saperli suonare tutti. Immagino. Senti, com'è cambiata la tua vita da un anno a questa parte, Marta? È cambiata in bene, nel senso che a livello mio personale sono di una felicità indescrivibile. Sì. È un bel impegno. Mm. Perché parto al mattino e torno la sera, pranzo, ceno in macchina, i miei genitori non mi vedono praticamente perché, mai. Perché è full time, è mattina e pomeriggio. No, è che io faccio anche un sacco di altre cose, quindi cerco di incastrare tutto. Dimmi due delle altre cose che fai, Marta. Ma uno, lavoro in azienda, quindi faccio part time lì. Sì. L'università. E poi insegno un po', vado in giro a suonare, insegno nelle bande, insomma, sono super impegnata. Senti, parliamo invece di questo lavoro part time che fai, perché io ricordo che tu hai appartieni a una famiglia che ha un'azienda, giusto? Sì, facciamo casalinghi in plastica e a differenza di quanto avevo raccontato... Fate casalinghi in plastica, scusami. Sì. Esatto, casalinghi in plastica. Cioè? Ciotole, ciotoline, bicchieri, tutto ciò che... Tutto ciò che è casalingo in plastica. Bravissimo, esatto. Sì. Senti, e tu chiaramente eri una predestinata, giusto? Ma sì, io ho studiato per poi entrare in azienda, quindi sono laureata in economia e in un futuro io dovrei entrare in azienda. Mm. C'è però questa passione che è una passione incontrollabile che insomma... Intanto mi ha portato a fare questa pazzia. Dimmi cosa fai esattamente in azienda adesso quando fai il part time, cioè che ruolo hai? Ufficio amministrativo, quindi contatti con fornitori, discorsi di fatture, banche, queste cose qua. Senti, invece l'ultima cosa che ti chiedo, Marta, e poi ti saluto, è quando è che fai una serata dal vivo a breve, da qualche parte? Con hai un gruppo, giusto? No, un gruppo, siamo i Percussions Map, ci trovate sia in Facebook che in MySpace. Vai con la soletta. Scusami, Percussion... Percussion Map. Savona, Modena, Ancona, Palermo. Ok. Sul mio profilo Facebook. Ale, no Marta, un po' di meno, Eva. Senti, dimmi quando suonate la prossima volta. Allora, suoneremo dicembre, il 18, al teatro, oddio se non mi viene il nome. Vabbè, lo troviamo. Comunque lì in zona Milano. In zona Milano, certo, vabbè. Come non trovarvi? I Percussion Map, no, vabbè, lì in zona Milano. Ci trovate. Marta, ti ringrazio moltissimo, ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Ti ringrazio Matteo, presto. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. 349-238-6666, mi scrive Paolo... Scegliere di cimentarsi in un nuovo ruolo e superare uno degli esami più difficili della propria vita. Essere un bravo papà. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Ho in mano la foto di Marta che ci ha inviato e che potete trovare sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui. Ed è vero che sorride molto Marta, sorride anche in questa foto. È una foto che ha un autoscatto, è preso leggermente dall'alto. Non si vede il braccio, si vede solo la faccia. Ha un bel sorriso, ha gli occhi leggermente allungati. Marta ha i capelli chiari, però ha quelle cose lì che fanno le donne, che ti fanno diventare le ciocche un po' più chiare, tipo i colpi di sole, credo. Grazie Viola. E poi ha una collanina legata al collo. Forse una foto scattata durante le vacanze. O forse una foto scattata fuori dal conservatorio. Voi siete qui. 349-238-6666. Oggi test d'ingresso di medicina. Io lo ricordo come la mano del destino. Oggi è il test d'ingresso di medicina in Italia? Ok. Io lo ricordo come la mano del destino, scrive, non so, non si firma. Sono medico da 7 anni, in bocca al lupo a tutti e sappiate che è solo culo. Benissimo, se lo dice un medico. Siamo a posto, ma non si chiama xilofono? Non lo so, parla della marimba, non della marimba, del vibrafono. Vibrafono o xilofono? Vabbè, Viola, Wikipedia. Mi sembra l'unica soluzione. Andate sul sito, perché il sito è... Non tutto il sito è nuovo, chiaramente. La pagina del programma è nuova ed è anche molto bella, perché c'è una mappa, c'è la foto di Marta, e poi c'è una mappa in cui voi schiacciate... Le spiegazioni non mi vengono mai molto bene, questo lo sappiamo. Però voi cliccate sulla mappa, dove c'è il puntino rosso, voi siete qui, e vi esce una mappa... non ce la faccio, ragazzi, è più forte di me. Comunque, vi esce Google Map, l'ha fatto Valeria, Ausiello, Francesco, Pini, adesso non lo so, l'hanno fatto di là, a quelli del sito. Esce una mappa esattamente su dove si trova Marta in questo momento, cioè dove vive, vicino a Bergamo, e poi c'è una... State sul sito, è veramente molto bello. Voi siete qui sul sito di radio24.it, perché c'è una grande mappa, capito? C'è una grande mappa in cui noi metteremo tutti i puntini del vostro... Voi siete qui. Vabbè, è arrivata una mail oggi, ne sono arrivate diverse. Ne è arrivata una di Paolo, che racconta proprio degli esami che scegliamo di fare, proprio come la storia di Marta. È un'altra storia però, è leggermente diversa, perché questo è un esame che Paolo ha sostenuto, ha superato, ma di cui non gli interessava l'esito. Caro Matteo, molti anni fa, quando di anni ne avevo 18, ho fortemente deciso di fare un esame. Era un esame con tutti i crismi, di quegli esami che durano 2 mesi, composti da diverse prove, alla fine dei quali c'è una vera e propria classifica, con tanto di punti guadagnati e di posizioni occupate. Era l'esame per entrare nell'aeronautica militare. Feci i primi test in una caserma di Guidonia. Poi, passati quelli, insieme ad altri 200 ragazzi della mia età, andai a Pozzuoli. Lì ci rimasi 10 giorni per quello che loro chiamano tirocinio. Un tirocinio che serve a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità richieste per la futura nomina ad ufficiale dell'aeronautica militare. In particolare a valutare l'efficienza fisica in ambito sportivo, le qualità attitudinali e caratteriologiche della loro personalità e l'adattamento alla vita collettiva e alla disciplina militare. Guarda, me lo ricordo ancora a memoria. I 10 giorni non furono semplici e non mi piacquero. Ma li portai a termine, perché avevo deciso di passarlo quell'esame. Dopo circa 2 settimane mi arrivò una busta a casa, proprio come nei film. La aprii e il Ministero della Difesa mi annunciava con grande soddisfazione che ero considerato idoneo al corso ufficiali dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Avrei cominciato dopo 1 mese e sarei diventato un servitore dello Stato. Ne fui soddisfatto, ma non accettai. L'esame lo avevo voluto fare per dimostrare a me, forse ai miei genitori o chissà chi, che ero in grado di passarlo, ma non era mia intenzione fare quel tipo di vita. Quando lo dissi a mio padre mi guardò come fossi un pazzo, e mi guardò ancora peggio quando mi iscrissi alla facoltà di filosofia dell'università della mia città. Sono passati quasi 40 anni, ora sono un insegnante in pensione. Quell'esame non ha cambiato la mia vita, ma me l'ha rafforzata. Un saluto, Paolo. Questo pezzo si chiama East Harlem ed è un pezzo di Beirut. Non mi ricordo mai, Tiziano, è uno da solo o è un gruppo? È uno da solo, si chiama Beirut. Il titolo di questa canzone e tutti gli altri che mettiamo durante la puntata lo trovate sempre sul sito di Radio 24, che è radio24.it/voi siete qui. Noi saremo in home page oggi, no? Non siamo in home page. Come non siamo in home page? Vabbè, cercate sui programmi, voi siete qui. E quello che volevo dire prima, e che no, sennò sembro un imbecille e che chiudo, è che di fatto ogni giorno ci sarà un piccolo segno sulla mappa, che è quella dell'Italia, che indica il posto in cui la persona di cui racconto si trova. Alla fine di questo programma ci sarà una grande cartina con tanti puntini rossi che segnano esattamente dove siete e la vostra storia di fianco. 349-238-6666. Ma non si chiama xilofono? No. Il vibrafono ha le lamelle in metallo, lo xilofono ce l'ha in legno. Altri messaggi che sono arrivati oggi erano questi. Raffaella: il mio esame? Lasciare una casa nel bosco dove ho vissuto in solitudine con la mia famiglia, isolati tra un ettaro di pini, e decidere di mollare tutto e tornare in cima ad una collina, tra la civiltà e la gente. Comunque in cima a una collina, capito? Non in una città, comunque da un bosco a in cima a una collina. E poi mi è arrivato quest'altro messaggio. Voi siete qui, @radio24.it. La cosa che ho sempre trovato spiazzante degli esami, scrive Giorgio, che mi sono imposto di fare quei tipi di esami lì, era la differenza tra l'eccitazione per l'arrivo dell'esame, cioè quella che precede l'arrivo dell'esame, e la sensazione di gioia, ma di vuoto, che arriva un secondo dopo la fine. Ogni volta che ho finito un colloquio, ho finito un esame universitario o una prova sportiva, mi sono sempre sentito un po' svuotato e un po' maturato, ma sicuramente diverso. Superare un esame ti dà soddisfazione, ma ti riempie di responsabilità. E a questo proposito mi è venuto in mente un pezzo che è tratto da uno dei più grandi scritti degli autori italiani contemporanei, che è Gli esami non finiscono mai, di Edoardo De Filippo. Tra l'altro la definizione Gli esami non finiscono mai arriva da lì, arriva dal titolo di questo testo, che è un testo del 1973. Il protagonista di questo testo si chiama Guglielmo Speranza e in sostanza nella sua vita fa diversi esami. L'inizio del testo però racconta di quello che succede a lui, della sensazione che lui prova esattamente un attimo dopo essersi laureato. E il discorso che lui fa ai suoi amici fa così. Amici carissimi, compagni di studi, i tempi della beata spensieratezza, della beata incoscienza dei 20 anni, almeno per me, sono finiti. Ottenuta la laurea, strappata coi denti, in meno di una frazione di secondo, una metamorfosi avviene in noi. Indipendentemente dalla nostra volontà, avvertiamo prepotente il senso della responsabilità. Ti tornano alla mente le parole dei genitori: figlio mio, farò qualunque sacrificio per mantenerti all'università. Ricordati però che senza il pezzo di carta per la società sarai soltanto una mazza di scopa. Con la laurea in pugno sento in me il senso della responsabilità, dell'impegno e della combattività. Questo è un pezzo che è tratto da Gli esami non finiscono mai di Edoardo De Filippo. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Un'ultima segnalazione per tutti quelli che fanno parte di Facebook, che ci giocano, ci ravanano, ci stanno durante il giorno. Il profilo del programma si chiama Matteo Caccia, io sono qui, per un semplice motivo: che dopo non so quanti contatti non si può più cambiare il titolo, cioè non possiamo più scrivere Matteo Caccia, voi siete qui, e quindi rimane quello. Se avete delle proteste da fare, non fatele a me, fatele direttamente a Mark Zuckerberg. Anche oggi abbiamo finito, anzi direi oggi abbiamo finito, e io ringrazio Viola Bottoni dall'altra parte, ringrazio Roberto Scaltritti, ringrazio Tiziano Bonini e Stefano D'Andrea, che scrive con me questo programma. La storia di oggi era quella di Marta e degli esami che decidiamo di fare. Quella di domani è la storia di Francesca e parla di piccoli e grandi segreti di famiglia. Il documento certifica che sono nata quando sono nata a Caput Kreis Potsdam, ridente località di vacanza nota unicamente per la casa sul lago di Einstein. Insomma, nulla di strano. Con la singolare circostanza della mia nascita al di là del muro, ci convivo da sempre. Sin da quando da bambina mi prendevano in giro perché il nome della città veniva storpiato con la parola Caput. Il mio nome è lo stesso, anche se ce n'è un secondo che non sapevo di avere. Poi però c'è qualcosa di strano, qualcosa che passa direttamente dalle parole che leggo scritte sulla pagina alla bocca del mio stomaco e lo chiude. È il mio cognome. Il cognome è diverso da quello che porto. È diverso ed è straniero.